sempre all'ascolto di Radio Popolare, questo è Rimandati a settembre che sta per cominciare. In studio Roberto Caselli, Paolo Magliocco e la nostra ospite graditissima, finalmente una donna, Lucia Beccai. Salve. Benvenuta Lucia. Grazie. E dunque oggi con Lucia Beccai parliamo di un tema affascinante e non proprio un tema al femminile, anche se, come dice Roberto, finalmente abbiamo ospite una donna. Oh, quanto siamo dovuti andare a pescare nella robotica per parlare con una scienziata, con una ricercatrice. Lucia Beccai si occupa di robot, perché si dice robot, vero? Non robot. Sì. Sì, sì, si dice robot. Perché non è una parola francese, neanche inglese. No, no, è un termine che viene da un signore cecoslovacco che aveva scritto all'inizio del Novecento, nel 1920, un testo teatrale e dove prevedeva appunto l'utilizzo di robot nelle fabbriche che assomigliassero agli uomini e la parola robota significava appunto lavoro forzato, lavoro pesante. Sì. E da lì poi l'inglese. Quindi il robot nasce già antropomorfo, nasce già come ce lo immaginiamo noi. Sì, con l'idea umana dell'uomo, del robot antropomorfo. Mentre invece di robot ne abbiamo tantissimi tipi, sì, vero? Adesso non riusciremo a parlare di tutti i tipi di robot, ma prima di tutto raccontaci come si arriva a occuparsi di robotica. Ma diciamo che si arriva, per quanto mi riguarda, con un percorso un po' arzigogolato, come si dice dalla mia parte, sono di Livorno, e in particolare io ho studiato ingegneria elettronica, quindi ho scelto diciamo di occuparmi dello studio appunto della fisica ed anche degli elettroni, dei sistemi anche informatici, e però sono sempre stata interessata all'aspetto appunto fisico della fabbricazione di questi dispositivi, non tanto quanto essi potessero in qualche modo come posso dire essere programmati, utilizzati in schede eccetera, l'hardware, in particolare. Poi anche durante insomma la tesi eccetera mi sono occupata più della parte di sensori fatti con il materiale base che si usa in elettronica, il silicio, che fu utilizzato principalmente per fare i transistor, quindi per le sue capacità di immagazzinare e gestire gli elettroni, però fu scoperta anche la sua potenzialità meccanica, no? Quindi, e questo è un tema diciamo che ricorre anche. E adesso ci arriviamo un po' nello specifico di quello che fai tu e di come si costruiscono oggi i robot. Ma prima dacci un'idea più generale. Noi il robot appunto lo identifichiamo un po' con l'umanoide antropomorfo che svolge un lavoro al posto nostro. Invece è una cosa molto più vasta, no? Qualunque macchina che svolga un lavoro da sola la possiamo chiamare robot o no? Sì, in effetti si può partire, perché la definizione di robotica, che poi è stata introdotta più avanti sempre in letteratura da Asimov in un racconto di fantascienza. Famosi due libri. Esatto, dove poi indicava le leggi del robot, insomma del comportamento, il comportamento dei robot, può avere diverse sfumature, però partendo, come dici tu, dalla definizione appunto di una macchina, cos'è una macchina? Una macchina è un meccanismo, un sistema che svolge delle azioni ripetitive in maniera automatica, però appunto il robot a differenza che cosa ha? Ha un comportamento, ovvero riesce a percepire e ad agire, no? Quindi risponde a degli stimoli, li elabora. E in qualche un modo. Un treno non è un robot perché va. Diciamo che dipende appunto se dall'intelligenza. Ha dei sensori che lo frenano. Dall'intelligenza già. Che ha, no? E ovviamente su questo ci sono varie gradazioni, varie interpretazioni, però principalmente che poi vanno diciamo, sfociano in quelli che sono i robot, se vogliamo, più industriali, a quelli che poi sono usciti dall'industria e sono poi anche, soprattutto negli ambienti della ricerca, ovvero riuscire a far sì che questi sistemi riescano a essere immersi nel mondo e possano interagire con il mondo. E in questo modo appunto avere una propria intelligenza, sempre però in qualche modo non indipendente ma comandata dall'uomo, però appunto che possano prendere delle decisioni e porsi degli obiettivi, no? In base anche alle esperienze passate. Quindi riuscire imparare, esatto. In questo senso, esatto. Intelligenti, come dice, sì, Roberto. Sì, sì. Certo, io mi immagino sempre i robot in campo, come dire, astronautico, no? Quello è un ottimo esempio, perché ovviamente quello è l'esempio eccellente, perché dove l'uomo non riusciva ad agire, quindi è lì che ci sono stati degli sviluppi impressionanti, no? Quindi è un esempio bellissimo. Però di robot siamo già circondati anche noi, senza bisogno di andare così lontano. Come... Sì. Beh, diciamo che oggi si sta sviluppando molto la robotica di servizio, la robotica, diciamo, che può essere di aiuto all'uomo in vari campi, può essere sia dal punto di vista medicale, perché lì c'è stato il più grande sviluppo, come per esempio il robot Da Vinci, che poi magari possiamo spiegare più avanti, per fare chirurgia. Un robot chirurgo. È un robot, diciamo, in campo biomedico, quindi non di servizio, in campo biomedico. Sia si arriva oggi, avrete letto su tutti i giornali, insomma c'è più enfasi delle notizie riguardo a quello che può essere un robot domestico, cioè quello che ci può aiutare togliere tutte le beghe, diciamo, giornaliere, ripetitive. Già si costruiscono questi robot, esatto, domestici, esatto, no? In esatto. effetti noi li immaginiamo ancora come protagonisti dei film. No, okay, non è così. Non è così, cioè, sono già fra noi. Ad esempio, non so, posso fare un esempio proprio più semplice, è un aspirapolvere che si chiama Roomba, che è stato progettato al MIT, è stato venduto in milioni di esemplari, e che secondo me è un bellissimo esempio di come il robot può essere al servizio dell'uomo, seppur ovviamente fa delle cose predeterminate, perché fa pulizia, però decide dove farle in base alle dimensioni di una stanza, in base alla quantità di sporco, in base evita gli ostacoli, sì, esatto, che girano. Esatto, sì, quello è un esempio molto estremamente semplificato, che però ci fa capire che sono già tra noi. Poi ovviamente questi robot, questi sistemi oggi possono avere il vantaggio di tutte quelle che sono gli avanzamenti della tecnologia dell'informazione, delle comunicazioni, perché abbiamo la rete, e quindi oggi per fare un robot basta una piattaforma semplice che possa muoversi con degli attuatori, magari comandati da dei motori, e che possa pensare semplicemente connettendosi a una rete, con una rete wireless, no? E in qualche modo anche elaborare delle informazioni in maniera virtuale, senza doversi portare integrata addosso tutta una potenza computazionale. Quindi l'intelligenza sta un po' fuori dal robot, esatto, che diventa soltanto il braccio. Oggi è possibile, per quello che c'è questo grande insomma, boom. Insomma, ce n'è un po' di tutti, sì, ce sì, n'è un po' di sì, tutti i tipi. Io so anche di esperimenti in cui proprio ci sono case, per esempio per gli anziani, in cui ci sono dei robot, degli automi che effettivamente rendono tutta una serie di servizi a queste persone. Sì. No? È chiaro che sono ci sono ancora degli esperimenti. Varie declinazioni ci sono, a seconda specifiche, a seconda delle necessità. C'è sempre il terrore che impazzisca, però. E quindi faccia delle cose sbagliate. Questo soprattutto vale nella robotica medica, voglio dire, se mi faccio operare da un robot che impazzisce, io sono finito, insomma. Ma in realtà per esempio nel caso del robot Da Vinci, no? Magari possiamo dare dei dettagli. Questo robot è un esempio di successo, commercializzato dalla Intuitive Surgical, e ha delle braccia estremamente destre che riescono in maniera molto fine e destra a compiere dei piccoli dei movimenti molto fini e fermi, e che amplificano le potenzialità del chirurgo. Il chirurgo riesce tramite una telecamera ad alta risoluzione, un sistema di imaging, così si chiama, a vedere in maniera appunto più ingrandita. Lui lo comanda in qualche modo? E lui lo comanda tramite una console, quindi è lui che viene addestrato, insomma fanno un enorme training questi chirurghi, e che riescono magari a eseguire delle operazioni complesse e impossibili altrimenti. D'altro canto ovviamente poi ci sono gli svantaggi dei costi, quindi è chiaro che il tutto deve avvenire nel mondo di oggi e ci sono altri ostacoli. Lascia sicurezza una roba del genere, sì. Cioè, sì, lascia sicurezza. Almeno l'esempio del Da Vinci detta legge, nel senso che questa è una realtà che è molto diffusa, è chiaro che va saputa usare. E questo è un altro tema ricorrente, cioè il saper gestire. Da Vinci è un caso un po' particolare perché è comandato direttamente chirurgo. Noi anche se Da Vinci è sicuramente un robot perché esprime delle potenzialità superiori a quelle della manualità umana, sì. Però è direttamente controllato e comandato da un uomo. Non farebbe niente da solo. Quello che noi immaginiamo un po' di più è il robot come automa, appunto, come persona, come oggetto autonomo, non come persona ancora, ma come oggetto autonomo. Facciamo un intervallo musicale. Lucia, facciamo un piccolo cambiamento di scaletta. Sì. Partiamo con gli Eurythmics. Sì. Gli Eurythmics che però hai scelto interpretare, o perlomeno cantare insieme a Aretha Franklin. Sì, sì, Annie Lennox. Esattamente, Annie Lennox e Aretha Franklin. Il pezzo si chiama Sister, Are You Doing It For Themselves? Sì. Come mai questa canzone? Beh, diciamo che... una canzone che mi carica molto, mi ha sempre caricato molto nei momenti di difficoltà. Perfetto. Thank you. Allora, due voci straordinarie a confronto, Annie Lennox e Aretha Franklin. Beh, bella scelta, Lucia. Due voci femminili, esatto. Giustamente, entrano tutto al femminile. Esatto. Il nostro ospite è Lucia Beccai, ingegnere elettronico che si dedica alla robotica. Senti Lucia, io sono sempre un po' angosciato, come ti dicevo prima, cioè qualsiasi cosa, meccanica, elettronica che sia, ha dei momenti in cui si blocca, insomma, sappiamo che la macchina si blocca, il computer si blocca, che certezze, come facciamo a essere così sicuri che non si blocchi invece il robot? Ma questa, diciamo, è una certezza che non abbiamo, nel senso che, come tutte le cose, ovviamente generalizzare è sempre un peccato, però c'è questa paura, diciamo, del robot che prenderà il sopravvento e che in qualche modo farà delle cose che noi non abbiamo stabilito. Forse è la letteratura che ci condiziona. Esatto, esatto. Quindi cioè, adesso ci sono queste discussioni a riguardo, anche molto elaborate, è molto diverso il mondo vero della robotica e quello che effettivamente può fare un robot con un'intelligenza artificiale. Siamo molto lontani dal poter far agire e decidere ad agire un robot in un ambiente reale. Quello che succede è che ci sono dei robot industriali molto ben sviluppati, che però stanno in aree dedicate e che non interagiscono con l'uomo, addirittura Fino lì siamo tranquilli, no? Abbastanza. Però quando escono dalle fabbriche, quindi diciamo non sono più in un ambiente, come si chiama, strutturato, ovvero organizzato e noto al robot, ma il robot non ha più i suoi riferimenti noti, quindi se li deve creare, deve capire il mondo, a quel punto l'intelligenza deve essere di un altro tipo. No? Ma è sempre un'intelligenza indotta dall'uomo? Certo, certamente. Certamente. No, quello che dico io, si può creare una specie di cervello autonomo all'interno del robot? No, nel senso che il robot... Continuo a chiamarlo robot. Sì, il robot diciamo si crea... Si può far sì che impari, in base alle sue esperienze, gestiamo noi, no? Quindi, se vogliamo, è anche un paradigma della società, nel senso che cioè quello che noi gli insegniamo, il robot in qualche modo può elaborarlo, no? Però è sempre condizionato e filtrato da come noi lo gestiamo. Ma il modo in cui il robot impara, quello pure lo decidiamo noi. L'intelligenza, il tipo di intelligenza che sì, ha un per esempio, robot. Facciamo un esempio pratico, un esempio vero di oggi. Sì. No? All'IT c'è un gruppo. Istituto Italiano di Tecnologia, sì, che sì. Dove lavori tu. Esatto, l'Istituto Italiano tu di Tecnologia. Tu lavori nel polo di Pontedera. Esatto, al centro di microbiorobotica. E non ti abbiamo ancora ringraziata per essere venuta da Pontedera fino a qui a trovarci. Grazie a voi. Grazie a voi. Il nostro centro è coordinato dalla dottoressa Barbara Mazzolai, poi magari vi racconto un po' cosa facciamo. Poi il quartier generale dell'istituto è a Genova, dove c'è una forte tradizione di robotica. È stato sviluppato il robot iCub, il robot bambino, un robot che è un umanoide e che è stato sviluppato dal gruppo capitanato dal professor Giorgio Metta, che è anche il vice direttore scientifico del nostro istituto, e che ha una testa, le braccia, le gambe, un corpo, esatto. Sì, è proprio un bambino. No, volevo farlo appunto figurare, a parte sì, lo avrete certo. Visto nelle notizie, ed è nato con un progetto riguardante appunto il poter far imparare al robot dei comportamenti basati su quello che è l'apprendimento psicomotorio dei bambini, no? Quindi i bambini, quando noi nasciamo, non abbiamo un coordinamento della visione con il tatto, ma lo sviluppiamo nei primi anni della nostra vita, nel primo periodo soprattutto. Quindi gli vengono dati al robot dei tool, degli strumenti iniziali, sia hardware che software, quindi vengono dati dei sensori con cui può sentire gli oggetti, gli viene data la visione, gli viene data la possibilità di muoversi e soprattutto di muoversi in modo destro, soprattutto per quanto riguarda la mano è estremamente destra. E noi con la mano esploriamo il mondo, no? Cioè lo vediamo il mondo perché lo tocchiamo e lo esploriamo. e in questo modo viene data la possibilità di riconoscere alcuni oggetti di base, e sulla base di questo, di questi primi strumenti, il software è in grado di avanzare, ovvero di imparare dai compiti che fa, no? Si chiamano task, no? Dalle azioni che fa, no? Ad esempio, se una pallina è morbida e tonda, la prendo in un certo modo, se è ruvida la prendo diversamente, se è un CD faccio una presa diversa. Sulla base di queste esperienze si crea quindi come una specie di libreria interna di memoria con cui si confronta poi in futuro nelle azioni successive, e quindi riesce poi ad apprendere alcuni movimenti, no? Quindi di fatto iCube impara. iCube impara, esatto, iCube impara. È un eccellente esempio di robotica umanoide che è nata per studiare soprattutto l'uomo, per capire come noi funzioniamo. No? Ma impara per tentativi ed errori, come facciamo anche un po' sì, noi. Anche sì, esattamente, perché ovviamente poi nella sua memoria ci sono sia i compiti portati a termine con successo, sia quelli che ha sbagliato, e sulla base di questo poi può prendere delle decisioni. No? E quindi questi robot, come dire, un'intelligenza in qualche modo la sviluppano all'esperienza che fanno. Esatto. Però sono delle intelligenza, non coscienza, vero? Intelligenza e non su coscienza. Su questo stiamo tranquilli, che non sfuggono. Ma infatti, il robot di Al il computer di Odissea nello spazio, quello non lo state facendo. Quello non lo non esiste. No, quello che prende il comando dell'astronave. Non esiste ancora. È esistito nell'immaginario molto molto precoce di Kubrick. Ma sai che l'immaginario diventa realtà, no? Eh? Infatti è un film che ha stupito tutti noi. Io tuttora continuo a vederlo e a interpretarlo in modo diverso ogni volta, no? E io l'ho visto quando avevo i miei 18-20 anni, mi ha aperto un mondo, sono rimasta impressionata, no? È un film geniale. Si vede sia tecnologia ma anche, no, le ripercussioni dell'uomo sull'uomo, e quindi ognuno poi gli dà la propria interpretazione, no? Per esempio, io l'interpretazione che gli do è che l'uomo può comunque vincere sul robot, mentre altri vedono più il fatto del robot che si ribella. Dipende da come guardi le cose. Senti, a proposito di ripercussioni sull'uomo, saltiamo un pochettino. Sì. Tu hai citato prima i robot delle fabbriche, delle industrie. Sì. Uno dei grandi temi è, certo, il robot sostituisce l'uomo nel compito pesante, come nel nome stesso, no? Di robot, come sì. Però ma crea disoccupazione. Se fanno tutto i robot. Ma è quella, diciamo, è la preoccupazione immediata, no? Che uno vede subito, no? Però bisogna, secondo me, avere una visione più ampia, no? È bene che se ne parli, perché questa è una discussione che deve esistere sia tra i ricercatori, non solo nell'ambito, diciamo, se vogliamo, più ristretto dei ricercatori, ma anche della società. Quindi io vorrei che vedere delle discussioni anche in TV riguardo a questo, avere degli esperti che si confrontano, come sta accadendo, per esempio, negli Stati Uniti o in Asia. Quindi diciamo che i robot, cioè il fatto del robot, della meccanizzazione, dell'industrializzazione che ruba il lavoro è un tema antico. Tra di voi ne parlate? Sì, sì, ne parliamo, ne parliamo continuamente. Beh, noi vediamo il fatto che la robotica ci può liberare, no? In qualche modo. Non so, dalla schiavitù del lavoro pesante. Parlo di me stessa, no? Perché è bene parlare poi di quello che si conosce. La lavatrice, la lavastoviglie, quelli non sono robot, sono macchine, però sono macchine che si utilizzano giornalmente, che liberano dal lavoro. Io posso pensare a mia nonna, chiaro, che lavava i panni a mano, no? Tante altre cose, no? Che potrebbero essere fatte e lasciarci liberi, anche del, andare al supermercato a fare la spesa. Posso pensare a tanti compiti. Insomma, no? Migliorano la nostra vita, secondo... Sì, secondo la mia e anche secondo anche quella di della comunità, sì, diciamo, sì. Dei beh, c'è da dire che poi, tutto sommato, i cambiamenti sono sempre avvenuti, e per esempio l'ultima rivoluzione industriale, la terza, quella dell'informatica, ha avuto dei risvolti, un impatto enorme sulla società, sull'economia, no? Quindi all'inizio anche lì c'era questo tipo di discussione. Viene da pensare che sia necessario, come dire, una manovalanza più più istruita, no? Esatto, più... questo è il punto secondo me da discutere, perché la questione è quella di quanto noi, quanto la società, le industrie si adattano a, si possano adattare, la velocità con cui si possono adattare, è cambiata la scala, no? Cioè, la, diciamo, la lunghezza della vita di una competenza è diminuita, no? Per cui, certo. Per esempio, sta accadendo anche un altro fatto, il fatto che prima, insomma, anche la mia generazione, si spendeva i primi 20 anni della vita a istruirsi, a formarsi, e poi a trovare un lavoro, forse due, no? Oggi il mondo del lavoro è cambiato, il mondo del lavoro è completamente diverso. Nel mondo del lavoro ci sono persone che ovviamente si formano, ma si formano continuamente, no? E stanno in un lavoro 2-3 anni, non di più. Quindi non è un caso che questo avvenga in contemporanea quindi allo sviluppo delle tecnologie, no? Quindi piuttosto dovremmo parlare di questo. Però no? Viene da dire che però, mentre insomma, per lavori pesanti un tempo erano necessari, per esempio, molti operai, certo. Oggi ne bastano pochi per comandare un robot, giusto? Esatto, quindi, quello è quello che vediamo di immediato, caso, no? però non è la sola però noi aumentiamo continuamente in termini proprio numerici, quindi è questa la preoccupazione, no? Cioè che viene diminuita la necessità di utilizzo della manodopera e nello stesso tempo aumenta a dismisura il numero di persone, per cui come verrà impiegata questo numero enorme di persone? Non so, qui si aprirebbero tantissimi temi. Va un po' oltre, ovviamente, però si aprirebbero tantissimi temi, ci vorrebbero economisti, insomma, esperti. Sì. Anche perché la nostra è una società fondata sul lavoro, noi lavoriamo perché guadagniamo, perché per vivere. È chiaro. No? Però ecco, potremmo anche lavorare diversamente. Il problema è, forse, non è, insomma, voglio essere così assertivo, però... di capire questa tecnologia e questo, diciamo, avanzamento che sia distribuito, no? In qualche modo, che non sia solo in mano a pochi, se vogliamo. E quello è il vero pericolo, no? Che si concentri. E quindi la ricchezza anche, molto meno ore, esatto, per esempio. Esatto, perché la tecnologia è neutrale, nel senso, è una cosa che può essere, no? Anche questo però è un tema. Vabbè, questo lasciamolo da parte. L'importante comunque però, sarebbe discuterne, come sì, dicevo. Infatti, ecco, l'importante sarebbe discuterne, perché alcune, sì, questo manca, però appunto la tecnologia potrebbe essere utilizzata per liberarci, no? Sì. Deve essere utilizzata per liberarci sicuramente, e avere più tempo per noi, no? Certo. E anche più sicurezza, vuol dire, perché se entra esatto, in campi esatto, che ci competono, non so, esatto, esatto. Indubbiamente. Andiamo avanti con un altro pezzo sì. musicale. Hai sì. portato un disco particolare, no? Sì. Una scelta strana questa. un artista di strada, giusto? Sì, Simeon Baker. Sì, è un ragazzo scozzese che ho incontrato l'anno scorso quando sono andata in Scozia con mio marito e mia figlia. E suonava la chitarra acustica in un modo bellissimo e sono rimasta conquistata non solo io ma anche mia figlia, quindi questo è un momento importante, no? Riuscire certo. a gioire sì. della musica nello stesso modo. Bravissimo. E condividere e quindi per me è importante. Eccolo qua, allora, il pezzo si chiama Roads. Sì. Thank you. questo virtuoso di chitarra acustica che Lucia ha incontrato in Scozia, ritorniamo insomma, a noi. Notevole questo Simeon Becker, comunque, niente affatto male, complimenti anche per aver notato. Senti, andiamo un po' a parlare del tuo lavoro a questo punto, Sì. Il tuo lavoro che ti occupi in particolare, dicevi, di... Sì, io mi occupo di, in particolare di studiare i meccanismi del tatto, quindi capire il tatto in natura e riuscire ad emulare queste funzionalità nei robot innovativi, quindi riuscire a capire come noi percepiamo l'ambiente e far sì che poi i nuovi robot del futuro riescano a farlo nel modo più naturale possibile. Il tatto, diciamo, è il nostro primo senso, è quello che ci mette in contatto con il mondo, insieme ovviamente a tutti gli altri, e che è legato molto al corpo dell'essere umano, ma anche di tutti gli organismi viventi. E questo, diciamo, mi porta, prima di parlare di quello che faccio io in particolare, a un tema che è quello dell'importanza in robotica di considerare non solo la mente ma anche il corpo, no? E quindi pensare che c'è un nesso tra la mente e il corpo che è imprescindibile. E quindi pensare a un robot, quindi la parte meccanica, la parte di attuazione da una parte e la mente da un'altra e collegarli non va più bene. Dobbiamo pensare a un qualcosa tutt'uno. Che è un tutt'uno, esatto. Quindi questa, diciamo, è un po' è un tema che viene discusso sempre più nel campo della psichiatria e anche soprattutto delle neuroscienze. Anche con il professor Martino ne abbiamo accennato per quanto riguarda l'uomo. Il fatto che, per esempio, il nostro cervello funziona così perché il nostro corpo ha una certa forma, ha delle caratteristiche meccaniche di un certo tipo e agisce in un ambiente che, per esempio, è sottoposto alla gravità, no? E questo è un tema importantissimo e, insomma, ci sono fior di testi e di articoli che lo discutono e si parla appunto di quella che è un'intelligenza embodied, ovvero incorporata, incarnata. No? Quindi nel modo in cui tu disegni il tatto, esatto, dei robot, esatto, in qualche modo disegni anche la loro, esatto, questo, intelligenza. Questo è vero per tutto quello che costituisce il robot, in particolare per il tatto. E come il tatto... sentono? Come fai a far sentire con il tatto? Allora, diciamo che il tatto è un meccanismo con cui degli stimoli esterni vengono codificati all'interno di un organismo, no? E questi stimoli possono essere di vario tipo, può essere una pressione, un contatto, una pressione, ma anche la temperatura o l'umidità. E noi nell'uomo tutte queste informazioni vengono fuse in qualche modo, no? Per dare poi la percezione a alto livello nel cervello di la forma di un oggetto, della ruvidità, del fatto che stia scivolando o meno. Quindi il tatto è anche un senso molto dinamico. No? Cioè noi abbiamo i vestiti addosso, però ce ne accorgiamo quando ce li mettiamo, no? Uh-huh. E poi specialmente quando manipoliamo gli oggetti sentiamo quando ci sta per scivolare di mano un bicchiere perché il peso è troppo, e anzi anticipiamo questo scivolamento con un controllo. E nei tuoi automi come fai? Come? E nei tuoi automi? Allora, io non ho un automa, però sono, diciamo, mentre mi sono occupata molti anni della sensorizzazione, di studio del tatto umano, mi sono mossa insieme a Barbara Mazzolai, che ne è l'ideatrice, di studiare il mondo delle piante, quindi considerare le piante come degli organismi viventi, come non lo sono mai stati in robotica, perché appunto le piante esistono, sono intorno a noi e seppur sono sessili, ovvero sono ferme, interagiscono con l'ambiente e si muovono su una scala temporale diversa dalla nostra, da quella degli animali, però si muovono e sentono soprattutto il tatto, sentono la gravità, sentono l'umidità, soprattutto le radici, per esempio, sondano il terreno e prendono dei percorsi a lei convenienti in base alla durezza del terreno, no? E quindi è un modello eccellente per capire come può funzionare il tatto e come magari questo possa essere implementato con dei materiali innovativi, forse in modo molto più semplice rispetto al tatto umano, e magari può essere lo sviluppo di una nuova generazione di sensori tattili molto più semplici, che possono essere usati come mattoncini nell'umanoide del futuro, perché no? Invece di tentare di replicare i 17.000 recettori tattili che abbiamo nella mano umana, magari si può pensare a inventare un materiale intelligente che ha la sensibilità di una radice. La semplificazione. Beh, è un concetto bellissimo. Questo è estremamente interessante, questa cosa. Cioè, mi viene da dire che, insomma, si può capire un po' come funziona l'essere umano studiando la robotica in qualche modo. Esatto, questa è la parte per noi più importante, perché chiaramente noi come gruppo, diciamo, siamo ovviamente, vogliamo fare come trasferimento, cioè trovare delle nuove applicazioni e far sì che la nostra tecnologia sia effettivamente applicata, però al contempo il nostro volere e dovere è quello di fare scienza, e la robotica è uno strumento potentissimo, no? Che può essere utilizzato come lo stesso iCub viene utilizzato, per esempio, come piattaforma aperta per i neuroscienziati, per gli studiosi del comportamento, per studiare certi comportamenti. Il plantoide, che è stato realizzato nel nostro laboratorio sotto la guida di Barbara. Cos'è un plantoide? Un plantoide è un robot ispirato alle piante, quindi in particolare alle radici delle piante. Quindi il fatto di riuscire avere un robot che possa penetrare il terreno in maniera efficiente come una radice, che lo esplora e riesce a prendere delle decisioni, tra virgolette, senza avere un cervello, quindi ha un'intelligenza distribuita. In qualche modo studiamo sempre noi stessi. Sì, esatto, esatto. E quindi questo è un nuovo paradigma che stiamo affrontando e stiamo studiando insieme a confrontandoci anche con dei biologi. Barbara stessa è una biologa, ha fatto sempre robotica, ma è una biologa. E in particolare, per quanto mi riguarda, io mi focalizzo sulla meccanotrasduzione, ovvero sulla trasduzione dei segnali meccanici esterni all'interno del robot, no? Con dei sensori tattili fatti con dei materiali innovativi che non sono rigidi, ma che si adattano all'ambiente, e proprio grazie a questo riescono a percepire. Questa prima. È la soft, esatto, è la soft robotics, e è l'anima della soft robotics, ovvero noi pensiamo alla natura, e qualsiasi essere vivente, nessun essere vivente è fatto completamente di materiali rigidi, ma morbidi. Ovviamente ci sono, abbiamo un endoscheletro, cioè ci sono gli animali che hanno degli esoscheletri, però gli animali si adattano all'ambiente, interagiscono con esso adattandosi. E questo è un punto importantissimo. Cosa bellissima del lavoro che fate voi, no? Sì. Che non solo è soft robotica, appunto, andando a cercare dei materiali diversi, morbidi, che si adattano, ma è una robotica che imita la natura, è una biorobotica, quello che voi sostenete un pochettino, è che alla fine non c'è mica tanto bisogno di inventare niente, no? La natura insegna. Ha già inventato tutto, si tratta di trovare il modello da copiare, come nel caso che dicevi tu. Si tratta in realtà non proprio di copiare, perché il termine copiare è eccessivo. Si tratta di astrarre dei principi dalla natura e farli nella tecnologia. Ad esempio, nella radice, no? La radice, diciamo, negozia delle forze con il terreno. Com'è possibile che una radice così piccola, così flessibile, così delicata riesca a arrivare, quando vediamo, no, le piante che escono fuori dalle insenature nel cemento? Come fa? No? Riesce a negoziare queste forze perché spinge dalla punta, ovvero crea delle cellule alla sua punta di continuo, quindi non è come i capelli che crescono dalla radice, ma dalla punta. Questa cuffia, no? E in questo modo e crea praticamente anche un muco intorno alla punta. E noi abbiamo studiato questo meccanismo con un occhio ingegneristico, qui andando a vedere quali sono gli attriti, quali sono le forze, con delle piattaforme elaborate. E abbiamo visto che, per esempio, una trivella, per esempio, che invece di spingerla dal dietro, se noi riusciamo a farla allungare poco a poco dalla sua punta nel terreno, ha bisogno di un'energia molto inferiore e di forze molto inferiori. Questo è, se vogliamo, un principio molto semplice. Non abbiamo copiato la radice, non abbiamo una radice che è uguale a quella naturale, ma il principio può essere utilizzato in dei nuovi dispositivi magari, in delle sonde che vanno magari anche in ambienti ostili dove l'uomo non può arrivare. Allora, un sacco di carne al fuoco, bellissimo, un intermezzo ancora musicale. È il Condor Pasa, sì. Pezzo sì. Famosissimo, notissimo, sì. Che per te ha una valenza anche particolare, giusto? Sì, sì, perché io ho passato la mia adolescenza in Ecuador, a Quito, e quindi sono molto legata a quella nazione. Questa canzone in particolare me la ricorda, anche se ovviamente la canzone è peruviana, però appunto mi ricordo i suoni e soprattutto il ritmo mi ricorda molto il modo di vivere ecuadoregno. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato questa canzone straordinaria, tradizionale, credo, tra l'altro. No? Questa è la versione degli Inti Illimani, no? Sì, forse quella che noi conosciamo di più, insieme a quella di Simon Garfunkel. Sì, certo. Preferisco quella degli Inti Illimani. Preferisci quella? Sì, beh, certo, giustamente. È più autoctono. Diciamo. Sì, tu quindi hai vissuto all'estero, però poi sei tornata dove sei nata, perché come dice il tuo accento, tu sei proprio toscana. Sì. Tra l'altro, sposando un toscano, che fa tutt'altro. Tu sei l'ingegnere, l'ingegnere di casa. Le donne ingegnere sposano gli ingegneri perché hanno talmente tanta scelta in una facoltà di ingegneria, ma invece non è così. Non è così, no. Diciamo che ci complementiamo molto, sì. E hai una figlia? Ho una figlia, Laura, di 14 anni, sì, che si affaccia adesso al mondo appunto delle scuole superiori. E è ingegnere come la mamma oppure scegli un po' più il lato umanistico? No, lei è una creativa, è un'artista. Un'altra cosa ancora. Però è molto affascinata dalle scienze, è molto curiosa e quindi spero che, diciamo, quello che faccio la aiuti a coltivare queste caratteristiche che sono fondamentali per crescere. Assolutamente. Ritorniamo all'argomento di prima, che mi sembra particolarmente interessante. Se ho capito bene, sintetizzando proprio. Sì. Allora, l'evoluzione del nostro cervello, in qualche modo, dipende molto anche dalle caratteristiche tattili che ciascuno di noi ha, in funzione anche dell'esperienza che subisce. Esatto. Possiamo darla per certa questa cosa. Sì, dipende come per tutti i sensi, ovviamente, no? Perché noi fondiamo queste informazioni. Cioè, il tatto, se vogliamo, è così, è un senso molto complesso, perché si basa esso stesso sulla fusione della codifica di tante informazioni, mentre per esempio l'udito o l'olfatto sono più precisi, nel senso che sono focalizzati sulla codifica di un parametro o pochi parametri. Invece il tatto, no? Evolutivamente l'importanza dell'udito credo che sia stata primaria, no? Sì, perché prima ancora di acquisire la zona retta, quindi di vedere il pericolo, bisognava sentirlo sostanzialmente. Credo di sì. E invece il tatto probabilmente si evolve successivamente come somma di esperienze. Sì. Noi con il tatto esploriamo il mondo e poi ci sono tutta una serie di studi anche riguardo per esempio all'importanza del tatto nei bambini, nella crescita, no? L'importanza di anche nella cura delle malattie, no? Ma dobbiamo pensare che... Nella cura delle malattie in che senso? Nel senso che praticamente in realtà non proprio cura delle malattie, nel fatto di avere un'interazione, no, con l'ambiente esterno, come questo possa aiutare una persona a crescere e a svilupparsi. Quindi per esempio nei bambini è stato studiato che bambini che non hanno avuto contatti da bambini e da piccoli hanno poi sviluppato difficoltà. Alcune difficoltà. Sì, ora non so di preciso, non so dargli un nome, però è così. E questo è studiato anche neuroscientificamente. Bisogna abbracciarsi i bambini. Sì, se vogliamo andare un pochino più, diciamo, nella piccola scala, che è quello che poi noi vorremmo fare, andare a vedere proprio come funziona anche a livello della microscala, anche cellulare, dovete pensare che la meccanotrasduzione non è una cosa che avviene solo, diciamo, all'esterno della pelle, no? Ma avviene in tutte le nostre cellule. Addirittura c'è una scienza che si chiama meccanobiologia, che studia come le variazioni che avvengono all'interno della cellula, nei segnali che essa trasmette, biochimici, a causa di stimoli meccanici, possono essere indice di alcune patologie. Per esempio, questo viene studiato molto nel campo dei danni cerebrali dovuti a dei traumi improvvisi, no? Ecco quindi lo studio anche di come avviene questa meccanotrasduzione a livello cellulare. Va bene, noi andremo avanti per ore a chiacchierare su queste cose, però purtroppo il tempo a nostra disposizione sta drammaticamente scadendo. Sì. Per cui... Un'ultima cosa, per quanto riguarda il discorso della biorobotica che stavi facendo tu, mi viene questa curiosità. Tu hai detto che voi prendete spunto e tentate, prendete ispirazione da tanti sistemi diversi. Ma forse allora l'idea del robot umanoide non è un pochettino, ecco. Va abbandonata. Il robot umanoide non è che va abbandonata, va seguita, però insieme a tanti altri. Ci sono tantissimi esempi. Meglio imitare i polpi, oppure per esempio i gechi. I gechi sono stati imitati a Stanford. È stato fatto un geco che, andando a studiare l'adesione delle spatole e delle zampe, riesce a amplificare l'area di contatto perché queste spatole si adattano ancora all'ambiente. Le piante a cui nessuno pensa mai. Il polpo, per esempio, studiato dalla Scuola Superiore di Sant'Anna, la professoressa Laschi, si muove in mare in un certo modo perché l'ambiente è il mare, quindi i tentacoli fanno certi movimenti perché è il mare che l'ambiente in cui si muove che riesce, quindi l'intelligenza è dovuta anche dall'ambiente con cui interagisce. No? Senti, ma in Italia siete tantissimi a fare anche studi sui robot e così. Sì, abbiamo una scuola di cui possiamo anche essere. L'Italia ha una forte tradizione. Sì, noi siamo partiti, io prima ero alla scuola Sant'Anna con il professor Paolo Dario. Quindi io mi sono innamorata della robotica grazie a lui. Quindi perché io sono venuta dall'ingegneria elettronica, sono entrata nel laboratorio della scuola Sant'Anna e lì ho imparato cosa vuol dire pensare. E grande futuro per la robotica, quindi, in Italia, secondo te ne abbiamo bisogno di questi. Siamo in chiusura, purtroppo dobbiamo finire qua. Grazie mille Lucia. Grazie è stato a voi. Una serata molto molto davvero Spero. Interessante. Grazie a Lucia Beccai. Grazie a voi. E alla prossima Lucia, ci lasciamo con un altro brano che hai scelto tu. Che è dei Dire Straits, giusto? Tunnel of Love. Sì, due parole su questa cosa veloce? Ma, diciamo, i primi amori adolescenziali. Un brano generazionale, anche Cristiano dal Sasso. Tutti così. Tutti i Dire Straits sono gli amori dell'adolescenza, non c'è niente da fare. Va bene, grazie ancora. E allora termina qui anche questa sera Rimandati a settembre. Roberto Caselli e Paolo Magliocco vi salutano. A presto, grazie. Ciao a tutti. Ciao Lucia. Getting crazy on the waltzer, but it's the life that I choose. Hey, sing about the six blade, sing about the switchblade, and a torture tattoo. And I've been riding on a ghost train. Where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming ring of faces, I seen her standing in the light. She had a ticket for the race, yeah, just like me. She was a victim of the night. I put my hand upon the lever, said let it rock and let it roll. One on bandit fever. There was an arrow through my heart and my soul. And the big wheel keep on turning. Neon burning. Up, up, up. And I'm just high on the world. Come on and take a low ride with me, girl. On the tunnel of love. A perfect stranger. She said, baby, let's keep it like this. It's just a cakewalk. Just a baby, step right up and see. Hey, mister, give me two now. Cause any two can play. And the big wheel keep on turning. Neon burning up above. When it's been money for muscle. Another world you dig, money for muscle and another girl I dig, another hustle just to make it big and walk away, walk away. Oh, walk away, walk away. The girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Yeah, girl, it looks so pretty to me, just like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. City to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me.